Gli stupri aumentano perché aumentano gli immigrati e questa è la tesi del centro-destra riguardo alle violenze di Roma. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa si schiera contro la concessione degli arresti domiciliari allo stupratore reo confesso di Capodanno e garantisce l'impegno del governo. Noi dobbiamo ridurre al minimo la possibilità degli stupri che sono aumentati perché il nuovo tipo di criminalità che non ha matrice culturale italiana è più abituata a questo tipo di violenza degli italiani. Anche per il ministro degli interni Roberto Maroni il problema sono gli immigrati clandestini, ma dal PD arriva uno stop alle polemiche. Walter Veltroni. Questa è una materia sulla quale le demagogie alle quali siamo abituati fanno particolarmente tristezza e orrore. Scoppia poi il caso di Facebook e il PD denuncia il gruppo di fan degli stupri e il presidente del Senato Renato Schifani chiede di indagare. Intanto il sindaco di Roma Gianni Alemanno annuncia nuovi punti luce, colonnine SOS e telecamere nei capolinea a rischio. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.